La storia della Georgia è una lunga successione di imperi, invasioni, schermaglie, guerre e massacri. Non viaggiate mai senza essere accompagnati da una guida. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, è venerdì 15 aprile 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Sapete che cos'è l'instant fiction? L'instant fiction è una forma di narrazione di storie che si basano su avvenimenti che accadano nello stesso momento in cui quelle cose vengono raccontate o immediatamente prima. Esistono gli instant film, esistono gli instant book e entrambe le cose sono film in un caso o libri nel secondo, prodotti in un brevissimo giro di posta da che quell'avvenimento è accaduto e che sviluppano o dicono cose su un macro avvenimento, su qualcosa che accade nella realtà e di cui si sente il bisogno di approfondire subito, con un film, con un libro. Io non faccio instant fiction, anche se oggi potrebbe sembrare il contrario. La puntata di oggi è dedicata a tutte le persone che, per motivi di lavoro, hanno vissuto periodi della loro vita, più o meno brevi, in zone pericolose del pianeta. Ingegneri, fotoreporter, cooperanti, militari, medici, infermieri, tecnici, diplomatici, osservatori, perfino gente dei servizi segreti, se possono e hanno voglia di raccontarmi dove sono stati e come hanno vissuto in quei luoghi. Che posti erano? Che cosa ci facevano là? Come convivevano con il pericolo e se si sono mai davvero trovati in situazioni pericolose. Non faccio instant fiction, come vi dicevo, anche se potrebbe sembrare il contrario, visto che oggi la notizia principale di cui si sente, si vede o si legge è della morte di un ragazzo italiano che lavorava nella striscia di Gaza. Ecco, quello sì che è un posto pericoloso. E forse solo quando accadono cose come queste, anche noi ce ne rendiamo conto. Ecco, è proprio per questo motivo che oggi io credo che abbia senso sentire i racconti di persone che hanno lavorato in zone come quelle, in zone a rischio, che ci hanno vissuto e hanno provato sulla propria pelle sensazioni che noi che lavoriamo o che viviamo tra ufficio e casa non proveremo mai. E credo che oggi, e in particolar modo oggi, abbia senso parlare e sentire queste storie senza retorica, senza giudizi, senza prese di posizione. Solo racconti. Che è quello che più o meno cerco di fare tutti i giorni e che chiedo di fare tutti i giorni anche a voi. Solo episodi, in questo caso e oggi, di vita in zone difficili. Solo narrazione, né più né meno. Io non credo che i racconti possano salvare nessuno, ma almeno possono rendere tutti un pochettino più consapevoli. Ecco, se voi che avete vissuto là avete voglia di raccontare, io sono qui. E avete un numero che è sempre quello, che è 80024 0024 per chiamare in diretta, oppure per mandare un sms è il 349 238 6666. Sono già arrivati dei messaggi sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, che raccontano esattamente di quello, di periodi di vita vissuta e di lavori poi serviti in zone difficili, zone a rischio. Per esempio Raffaele subito spiazza e scrive: faccio l'autista dell'azienda napoletana di mobilità, quartiere Scampia di notte, Napoli, io sono stato lì. Raffaele, se stai sentendo, magari se sei in autobus e voglia di raccontarci perché è pericoloso e in che modo è stato pericoloso, è difficile per te lavorarci. Gianluigi invece: lavoravo nei campi di petrolio, ho lavorato in Nigeria, in Algeria, in Iran, in Iraq, in Kazakistan, in Costa d'Avorio, 15 anni fa, ed ero costantemente sotto scorta armata. Laura invece mi racconta un episodio che è capitato a una signora che ha conosciuto. Moltissimi anni fa ho incontrato una signora irachena rifugiata in Inghilterra. Mi raccontò che nel suo paese lavorava nella servitù di Saddam Hussein. Fra le tante storie che mi raccontò, mi colpì quella in cui mi spiegò come ogni cosa doveva essere perfetta in casa. E mi raccontò che c'erano diversi addetti che controllavano, ad esempio, che le posate sui tavoli fossero diritte. A seconda del grado di importanza nelle servitù, i vari addetti dovevano controllare per primo, per secondo, per terzo e così via. E uno dirà: vabbè, zona a rischio, però cosa c'è di pericoloso? Niente, perché mi raccontò che dovette fuggire perché quello non era certo il tipo di lavoro da cui potevi licenziarti. 80024 0024 349 238 6666. Tutti quanti sappiamo che cos'è accaduto ieri ad Arrigoni e sappiamo come anche ormai lo sappiamo come è accaduto. È per questo che oggi vi chiederei veramente di evitare retoriche, di evitare moralismi, semplicemente di raccontarmi la vostra storia, di raccontarmi dove siete stati, che lavoro avete fatto e che tipo di rischio correvate e che grado di difficoltà c'era nel paese in cui avete lavorato. Luca, ad esempio, un mio amico, questo sembra un po' mio cugino, ho un cugino che lavorava per la FAO. Entrava in Corea del Nord senza poterci entrare per rilevare i resoconti economici del regime. Aveva seguito un corso di addestramento della CIA in Svezia per 3 mesi, prima di imbarcarsi in questa avventura per circa 2 anni della sua vita. Da semplice giornalista prima dell'Economist, poi impiegato per il World Food Program, è diventato una vera spia a tutti gli effetti. Nulla a che vedere con James Bond. Vabbè, è brutto, sciatto e politicamente corretto. Questo che c'entra? Fa un lavoro e non è un personaggio di fiction. 800240024 349-238-6666. Vi dicevo, non faccio instant fiction perché quello che racconto ha sempre a che fare con quello che mi capita. Anche se quello che mi capita delle volte in maniera quasi grottesca combacia con quello che succede al di fuori di casa mia e al di fuori anche dei confini nazionali. Quello che mi capita è che la mia fidanzata ha preso una decisione. Natalie si è convinta. Partirà per la Georgia. Andrà a Tbilisi. Ci è voluta tutta la mia capacità di infonderle coraggio e il racconto di come Samir ha navigato il Mediterraneo per convincerla. Ma alla fine si è decisa. E ora non ha più paura. Non pensa a come sarà il tempo oppure a come passerà le giornate. Pensa solo che quella sarà la cosa giusta da fare. E la farà. Perfetto. Ora, quello preoccupato sono io. Sì, perché vedere la mia fidanzata andare a rischiare la pelle, così penso, per salvare il prossimo, mi mette, certo, una grande fierezza, ma mi spaventa un po'. Non posso negarlo. Sì, io ho paura per lei. Ho paura che le succeda qualcosa. Che stia male, ad esempio, e non ci siano medici abbastanza bravi. Oppure che sia coinvolta in qualche questione più grande di lei, non voglio nemmeno immaginare cosa. E purtroppo non sono paure inventate. La Georgia, ora non lo so, però ha vissuto periodi abbastanza bui. E adesso tanto bene non è che debba stare, se no non ci andrebbe gente da tutto il mondo a dare una mano. Gente come Natalie, ad esempio. Naturalmente cerco di non darla vedere. Quando ne parliamo continuo a tenere un atteggiamento molto sereno. Però me la sto facendo sotto. E quindi cosa ho fatto? Niente, ho fatto quello che aveva fatto lei qualche giorno prima. Mi sono informato su dove accidenti andrà a stare e perché hanno bisogno d'aiuto. Quindi ho scoperto che esiste una guida della Lonely Planet che accorpa Georgia, Armenia e Azerbaijan. Solo che nemmeno le librerie più grandi la tengono, chissà perché. Comunque sono andato sul sito e sul sito ci sono delle informazioni. La Lonely Planet è la guida che uso di più. Mi fa ridere perché è scritta dalle persone più improbabili. Ho scoperto ad esempio che nella versione italiana della guida della Puglia, le recensioni dei ristoranti di Lecce del Salento sono scritte da un inglese. Che, ora, con tutto il rispetto, però, cosa può capire bene delle differenze tra le diverse cucine regionali e locali uno che è nato e cresciuto a Fish and Chips? Però la Lonely Planet mi piace proprio per questo. Perché non ha un tono mitizzante, perché è leggermente distaccata, ma con la curiosità delle cose nuove. Insomma, sembra che abbia lo sguardo di un turista. Sembra di poterci immedesimare. Ecco perché, in attesa di sapere se avrei potuto o meno recuperare la versione cartacea e completa della guida della Georgia, mi sono accontentato di una pagina web. Le prime informazioni sono state rincuoranti. Una bella sorpresa è stata soprattutto la prima frase, che mi ha fatto sciogliere in un sorriso. La Georgia si sta riprendendo dagli scontri che nell'agosto del 2008 hanno interessato le regioni dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia. La Georgia si sta aprendo al mondo e con il placarsi delle tensioni civili, il mondo comincia finalmente a prestarle attenzione. Ecco, che splendida notizia. Fermarmi lì. Avrei dovuto saltare tutto il capitolo introduttivo e passare al link, a quello che portava alle specialità gastronomiche, agli usi, ai costumi, a dove si parla, di come si celebrano i matrimoni, quanto durano le feste, che sport sono praticati. Invece no, ho proseguito leggendo il resto dell'introduzione. Il pezzo che ho letto recitava così: la Georgia ha raggiunto l'indipendenza soltanto pochi anni fa. E nonostante il miglioramento del livello di vita della popolazione, non sono ancora stati raggiunti gli standard europei auspicati dal governo. descritta, a seconda delle fonti, come un paese europeo, un paese dell'Asia centrale o del Medio Oriente, la Georgia ha per lungo tempo rappresentato un luogo di contrasti culturali e geografici. Le condizioni climatiche e il paesaggio di questo paese rappresentano un punto di incontro tra l'Est e l'Ovest. La sua storia è una lunga successione di imperi, invasioni, schermaglie, guerre e massacri. Consigliamo a chi viaggia di non recarsi nelle regioni di confine con Cecenia, Daghestan, Ossetia del Nord, Inguscezia, Kabarda-Balkar e Karakai-Kherkessia. Il rischio principale in queste zone è rappresentato dalle mine, dai disordini civili e dalla frequenza dei sequestri di persone e delle aggressioni. La regione della Gola di Panchisi è teatro di un'intensa campagna antiterroristica. Non viaggiate mai senza essere accompagnati da una guida. Ecco, perfetto. Praticamente l'inferno. E come se natalista stai andando a svuotare il mare con un secchiello. E io l'ho pure incoraggiata. Che poi, a queste cose, io ci avevo pensato e le sapevo anche. La televisione la guardo un pochettino, me ne ero accorto che quello era un paese pericoloso. E allora sono andato su Wikipedia per capire cosa diavolo è stata la guerra in Ossetia, così vicina da non essere ancora un ricordo. E ho trovato questo. Ho letto: il conflitto iniziò il 7 agosto del 2008, dopo diversi giorni di pesanti scontri tra esercito georgiano e milizie ossete, che culminarono nell'attacco della Georgia all'Ossetia del Sud. La Federazione Russa è intervenuta massicciamente sbaragliando i georgiani, arrivando ad occuparne una larghissima parte del territorio, sino a poche decine di chilometri da Tbilisi. Ho saltato qualche paragrafo, mi sono soffermato sui disegni colorati con dei carri armati che si spostano qua e là, come nel Risico. E ho pensato che quello sì che voleva dire essere in guerra. E che chi abitava Tbilisi non era fortunato. E che chi ci va per dare una mano è una brava persona. E allora sono andato da Nathalie, che stava facendo le valigie. E l'ho abbracciato tenendole forte le spalle, come se volessi spremerla e non lasciarla mai. L'ho stretta tanto che quasi non respirava. Poi le ho dato un bel bacio sulla guancia e una carezza sulla schiena. E mi sono andato a fare una corsa. La corsa più lunga che io abbia fatto da mesi a questa parte. Di quelle corse che corri e corri senza senso, per il solo piacere che da correre e non pensare a null'altro che ai tuoi muscoli che si muovono in continuazione, fino a farti perdere il ricordo di quello che stai facendo, fino a farti dormire. Sei. Sono stato in Kosovo, mi scrive Marta. Sono stata in Kosovo e nei territori occupati in Palestina. Che pressione psicologica essere costantemente controllati da militari giovanissimi armati. Io invece ero in Perù quando l'ambasciata giapponese venne assaltata dai ribelli Tupac Amaru. Poi grazie, la capitale della Georgia si chiama Tbilisi e non Tbilisi, sì, però pronunciala te tutti i giorni. Alla radio, Nasiria, 12 novembre 2003. Io ero lì, ma ancora oggi non voglio parlarne. Mi perdonerai e ti perdonerò. Io ero in Polonia l'estate di Solidarnosc a Danzica. Esperienza notevole. C'è più rischio in Italia che in Georgia. Questi sono, diciamo, la parte simpatica. C'è più rischio in Italia che in Georgia. E poi anche dovresti preoccupare di più del fatto che non te la porti via un bel volontario svedese. Ecco, questi luoghi comuni sui nordici e sugli scandinavi che sono più avanti di noi e quindi vanno nei luoghi dove c'è bisogno di loro e sono belli e sono biondi. Cioè, che è una parte pure vera, quella che sono più avanti di noi, non che sono belli e sono biondi. E poi un livornese mi scrive: io sono stato a Pisa due volte, però credo che questa non valga in questo caso. Oggi invece mi è arrivato questo messaggio, anzi questa mattina, è un messaggio sul profilo Facebook che mi dice: mi occupo di sviluppo di mercati emergenti da anni. Nel 2001-2002 seguivo il Medio Oriente, in particolare Arabia Saudita e Kuwait. Per precauzione viaggiavo facendo finta di essere un sub e andavo in giro con un vistoso borsone della Cressy, magliettine fluorescenti, collanine e cappellino australiano. Ho vissuto e vivo situazioni a rischio rispettando ed adeguandomi alla cultura locale, senza mai dimostrare di avere paura. Una buona abitudine è quella di avere sempre un piano B, o come direbbero gli americani, in case shit happens. Pronto Mary? Pronto Matteo. Ciao, come stai? Molto bene, tu? Senti, innanzitutto mi pronunci esattamente il tuo nome? Mary. Mary, perfetto. Sì. Sei di origine turca, giusto? Sì, esattamente. Mia madre era turco-americana, padre italiano, e hanno scelto un nome turco. E tu dove vivi? Per rendermi la vita più difficile. Dove vivi? In questo momento sul lago di Iseo. Sono tornato a casa, faccio il pendolare tra Iseo e un po' in giro per il mondo. Ma è per questo che si sentono gli uccellini alle tue spalle? Sono in giardino, sì. Senti, e che lavoro fai esattamente, Mary? In questo momento dirigo un'azienda in Inghilterra e mi occupo dello sviluppo, infatti, in mercati emergenti, e in più una startup qui nella Franciacorta che è partita quest'anno, quindi mi diletto a fare diverse cose. Ma quanti anni hai, scusami? 40 compiuti quest'anno. Senti, che cosa hai studiato per fare questo tipo di... Allora, studiato assolutamente nulla di compatibile. Ho stato negli Stati Uniti, laureato in psicologia e ho intrapreso la carriera di giocatore di basket professionista fallimentare. Negli Stati Uniti, no? Questo? Prima negli Stati Uniti, poi sono venuto in Italia. Poi ho rinunciato alla carriera cestistica molto presto per darmi poi al settore del turismo, dove praticamente ho viaggiato per 15 anni e da 10 mi dirigo aziende nel settore industriale, quindi faccio dirigente aziendale in giro per il mondo. Senti, raccontami invece dell'esperienza in Kuwait e in Arabia Saudita. Ma nel 2001-2002 erano caldi come posti? Caldissimi. Matteo, dopo l'attentato l'11 settembre, per noi viaggiatori business travelers è cambiata totalmente, rendendo tutto più complicato, difficile e rischioso. Tanto più che in quel periodo, dopo l'11 settembre, praticamente era, dico, non proibito, però non era d'uso viaggiare nei paesi del Medio Oriente, soprattutto quelli caldi, che però aziendalmente erano una grande opportunità per l'azienda che seguivo. Ovviamente. Quindi io praticamente mi andavo in quei posti caldi ed ero l'unico, non avevo concorrenza e riuscivo ad aprire dei mercati con diciamo abbastanza con grande facilità a livello professionale, ma a livello personale dovevo avere delle accortezze. Una di queste era di non far capire che ero un viaggiatore di lavoro. E quindi facevi il subacqueo praticamente? Sì, sì. Senti, andavo in giro col borsone. Sì, senti, sì, ma sì. Ti è mai capitato di essere veramente in situazioni di pericolo oppure di percepirlo, sì, però andare liscio? Decisamente sì, soprattutto ti dico in Kuwait, dove di civili non ce n'erano tanti e praticamente ero seguito a distanza, poi me ne sono accorto dopo quando la polizia locale mi ha fermato. Eri seguito da chi, scusa? E praticamente la polizia del posto, soprattutto del Kuwait, mi seguiva a distanza, penso che lo facevano un po' con tutti gli stranieri, e quando vedevano che c'era la possibilità di qualche difficoltà intervenivano suggerendomi di andarmene, perché io praticamente modo per non dare nell'occhio era quello di integrarmi nella popolazione facendo credere che io ero un residente. Chiaro. Sì, un residente con la borsona da sub. Mary, senti, ti devo salutare, ma ti ringrazio per il tuo racconto. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Buona giornata. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi invece siamo in un piccolo paese, credo prealpino probabilmente, perché c'è in primo piano un fiume che scorre, anzi proprio la curva di un fiume, due ponti e un edificio, credo il retro di una chiesa, qualche casa in pietra, potrebbe sì essere un paese non di montagna, ma direi prealpino, ci sono delle montagne dietro, c'è il cielo azzurro e c'è un bel campanile. Potrebbe essere uno di quei villaggi che si svuotano e che diventano poi... luoghi di vacanza, luoghi da fine settimana, dove la gente va per passarci i weekend. Un po', diciamo, la fine che potrebbe fare questo paese, un paese da fine settimana. Matteo Zani, 39 anni. Aspettando che mia sorella esca dalla sala operatoria, passeggio da Miro San Giovanni Bianco, piccolo borgo della Val Brembana. Io sono qui. Matteo, con la speranza che sia andato tutto bene nella sala operatoria, facci sapere dove sei adesso. 800240024 349-238-6666. Ce n'è diversa di gente all'ascolto che è stata in zone a rischio e che in quei posti ha lavorato. Marisa, da Savona, infermiera pacifista a Sarajevo, dicembre 92, 93, 94, e poi Mostar, Bosnia, anche Belgrado, Kosovo, sempre con e tra la gente comune. Pronto Marisa? Ciao Matteo. Ciao, grazie per essere qui. Grazie, guarda, io stavo proprio pensando cosa fare, se non mandare una mail alle associazioni pacifiste di volontariato con le quali collaboro per ricordare il ragazzo che è stato ucciso in Palestina. Certo, immagino. Marisa, credo che una delle cose più belle sia raccontare la tua esperienza in questo momento. Che cosa facevi tu? È un'esperienza queste tante persone, io facevo parte della sezione italiana della Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, cioè avevo un impegno da molti anni per l'internazionalismo. Sì. E con lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia ho sentito il bisogno di fare qualcosa anche con le mani. Quanto ci sei rimasta là? Ma io non ci sono rimasta fissa, io utilizzavo tutti i miei periodi di ferie, estive, pasquali, invernali per andare e venire. Quindi più o meno quante volte ci sarei andata, Marisa, grosso modo? Dal 92 al 97 sono stata. Tutti gli anni più o meno ci andavi, almeno una volta all'anno? Sì, tre volte all'anno ed estate restavo un mese, 40 giorni anche con i recuperi degli straordinari. Ma tu di mestiere sei un'infermiera? Sì. Ah ok, quindi andavi là e prestavi il tuo servizio? Certo, facevo di tutto, no? Dallo spostar massi al medicare, al portare la posta e vivere soprattutto fra le bombe, fra le case semidistrutte con la gente. Senti Marisa, raccontami l'episodio più bello che ti ricordi. La prima esperienza, io partecipai, io sono una persona laicissima, mm-hmm. però accolsi il messaggio dei beati costruttori di pace di Padova e feci parte di quei 500 che tutti consideravano pazzi, folli, che entrarono in Sarajevo di notte completamente disarmati, passando da parte serba. Avevamo due ambulanze, io ero su una delle due ambulanze, ed è stata un'esperienza emozionantissima per la gente. Senti Marisa, finalmente qualcuno si è ricordato che noi siamo vivi. Immagino, senti Marisa, mi ricordo, io avevo un amico che aveva partecipato a quella forma di ingresso quasi clandestino a Sarajevo. Vi eravate preparati però, avevate fatto delle... Sì, io curavo soprattutto la parte sanitaria, avevamo fatto parecchi incontri, eccetera. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare un ragazzo che in volte successive fu ucciso, Gabriele Moreno Locatelli, che anche da qui è stato considerato un folle, invece a Sarajevo gli hanno dedicato una strada. Marisa, ti ringrazio molto per il tuo racconto, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie a te Matteo, ciao. Attentato a Bali il primo giorno di viaggio di nozze, Fabio, questa però, perdonami Fabio, questa è proprio sfiga. Andiamo da Damiano a Treviso, pronto Damiano? Ciao. Tu sei stato in Georgia? Sì, io sono stato in Georgia un anno. Com'è sta Georgia? Sono stato 6 mesi al confine con l'Abkhazia e 6 mesi al confine con la Sardossette. Ho lavorato per l'Unione Europea con la missione di monitoraggio a seguito dell'accordo di pace Sarkozy-Medvedev. Ma cosa fai nella vita esattamente, Damiano? Ma io nella vita sono un militare, però in quell'occasione eravamo in missione civile, quindi disarmati. Eravamo una forza tutta europea di tutti i 26 paesi dell'Unione Europea. E qual era il vostro compito esattamente là? Il nostro compito era appunto quello di frapporci su questa linea di confine amministrativo, chiamiamolo, per vedere che gli accordi di pace fossero rispettati sia dalla parte georgiana sia dalla parte delle autorità de facto delle due regioni separatiste, sì. E sia dalla parte dell'esercito russo che era lì in prima persona. Senti, tu ci sei rimasto un anno, adesso 6 mesi mi dicevi, no? 6 mesi da una parte e 6 mesi, e 6 mesi dall'altra. E adesso com'è la situazione, più o meno? Ma la situazione è abbastanza tranquilla, infatti ti volevo tranquillizzare se qualcuno ti ringrazio. No, la situazione è abbastanza tranquilla perché la gente comunque ha voglia di ricominciare. È vero quello che c'è scritto sulla guida Lonely Planet. Ci sono, guarda, ti dico, Zugdidi, che è la prima città al confine con l'Abkhazia, 180.000 abitanti, di cui più di 90.000 rifugiati della prima guerra del 91, che vivono con $28 al giorno passati dalla comunità internazionale. Cioè comunque c'è il controllo pieno della comunità internazionale o dell'Unione Europea? Il controllo pieno dell'autorità governativa georgiana. Okay. È ovvio che gli screzi ci sono, perché queste due piccole regioni separatiste si sono nominate autonome de facto, no? Chiaro. Quindi è ovvio che ci siano delle tensioni, soprattutto lungo le linee di confine. Damiano, senti, io ti ringrazio molto soprattutto per avermi tranquillizzato. Ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie. Emanuele, infermiera a domicilio a Roma, sequestrato con tutto il motorino a Tor Bella Monaca e check-in degli spacciatori a San Basilio. Io ero lì e che strizza. Andiamo sempre a Roma da Gisella, che invece ha un ricordo di quando era bambina, credo. Pronto, Gisella? Sì, ciao. Ciao, quanti anni avevi? Quanti anni avevi Gisella quando eri a Tripoli? Allora, io ne avevo 8 e nel 1969, primo settembre, mi trovavo a Tripoli con tutta la mia famiglia, tutti i miei parenti, perché noi siamo nati là. E già da giorni, quando camminavo per strada, i ragazzini per strada mi facevano il segno del dito come un coltello, che ci volevano sgozzare. Wow. Ci sputavano addosso. Questa cosa andava avanti per mesi, per settimane. Io non potevo uscire per andare a scuola da sola, ma dovevo essere sempre scortata. E poi, quando c'è stato il colpo di Stato, ci sono state un sacco di leggi, di decreti, per cui non si poteva uscire, c'era il coprifuoco. Gisella, fermati un secondo, scusami, mi dicevi avevi 8 anni, quindi tu hai fatto da 0 a 8 anni là, giusto? Io sono nata lì. Sei nata lì. Noi siamo cittadini italiani. Sì, sì, vabbè, lo immagino, ho capito la cosa. Era nato lì, insomma. Gisella, mi racconti, Gisella, mi racconti un ricordo piacevole di quegli 8 anni trascorsi a Tripoli prima di venire? Ce n'erano tanti, perché la cittadina era bellissima, una città piena di palme, con un lungomare splendido, un mare meraviglioso. Noi avevamo una tenuta agricola, mio padre produceva l'olio d'oliva e con l'olio d'oliva produceva un sapone speciale. Il sapone di Marsiglia, ma che vendeva anche in Italia, molto famosa la nostra, la Tripoli. E poi, insomma, dopo un mese e mezzo noi siamo riusciti a scappare, però non potevamo portare niente. Abbiamo portato dei vestiti e la polizia di confine ci saltava addosso alle valigie per spaccarle, in modo che i vestiti fuoriuscissero. Beh, ho capito la situazione, insomma. Gisella, ci sei mai più ritornata da allora? No, immagino di no. Ti sequestravano tutto, insomma. Siamo riusciti noi a sopravvivere, ma delle famiglie sono state massacrate, sgozzate. Gisella, Gisella, che cosa fai adesso nella vita? Sgozzare le persone, quindi. Niente, ma Gisella non mi sa che non mi sente. Mi senti, Gisella? Sì. Che cosa fai adesso nella vita? Ah, io sono impiegata. Sei impiegata a Roma? Sì. Una vita più tranquilla, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao Gisella. Matteo, la mia fidanzata è georgiana di Rustavi, lei mi vuole sposare e trasferirsi qui, io invece non lo so. Nel senso che non sai se vuoi trasferirti tu là o non sai se farà venire qua. Che faccio? A me lo chiedi. Chiedilo al tuo analista o al tuo prete confessore. 349-238-6666, sei ancora per qualche messaggio. Adesso invece vi leggo una mail. È una mail che è arrivata a Tiziano da un suo amico che faceva il cooperante, lo fa tuttora, ma all'epoca si trovava in Darfur. Darfur. Primavera del 2009. Daab, il nostro guardiano, è un signore di circa 70 anni, sordo da un orecchio e cieco da un occhio e mezzo. Oggi fa un caldo porco, in stile agosto del 2003, qualcuno se lo ricorderà bene. Ecco, il caldo di oggi a Jenina ricorda quello là, ma solo per avere un termine di paragone, un termine che a qualcuno possa suonare familiare. Perché in effetti il caldo qui è ben più intenso. Si sente la vita evaporare via, insieme ai liquidi corporali. Quindi, Daab, visto il caldo, me lo sono ritrovato in cucina, locale decisamente più ombreggiato e ventilato della veranda, sotto la quale i nostri prodi guardiani sono soliti risiedere e scrutare verso il cancello d'ingresso. Sdraiato su una panchetta, rosario alla mano, Daab esibiva i suoi piedi, butterati, spaccati e incancreniti. Li esibiva l'inconsapevole cooperante che, proveniente dall'interno dell'abitato, bel bello si recava nella comune cucina per farsi un italico spaghettino aglio, olio e peperoncino. Purtuttavia, il languore, nonché della sana nostalgia culinaria, vinceva l'orrifica visione e, concentrandosi sulla pietanza, riusciva anche per oggi a saziarsi decentemente. Ecco, tutto ciò per informare i sempre più numerosi amici e parenti che mi segnalano il rischio di un eccessivo deperimento fisico, che nonostante le infinite avversità del luogo e un'effettiva perdita di peso dovuta alle numerose diarree che colpiscono indiscriminatamente, come gli attentati terroristici in Afghanistan, il cui presente scrivente riesce comunque a portare avanti la sua quotidiana lotta per il pane. Ciao a tutti, Federico. Grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea, che scrive insieme a me questo programma. Scusami, Matteo, ultimo messaggio di oggi, ma potresti essere incriminato per favoreggiamento per immigrazione clandestina. La tua ragazza parte per la Georgia, tieni per l'Inter, fai una cosa, un viaggio, fallo tu, ma a Lourdes però. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?